dare molti stimoli che possono essere presi per la vita di tutti i giorni. Quindi quello che abbiamo visto sulle passerelle che ci accompagnerà per la primavera del 2015 sono appunto stimoli, segnali molto diversi. Abbiamo visto gli anni 70, quindi abiti a trapezio, pantaloni a zampa di elefante nelle passerelle di Pucci o di Saint Laurent o di Gucci. Abbiamo visto delle frange come decoro, abbiamo visto dei tailleur in pelle, pelle molto preziosa, il cocco, lo struzzo. Abbiamo visto il cappotto usato anche in formula estiva sulla passerella di Celine di Prada. Abbiamo visto il ritorno del black and white, il ritorno della zeppa. Quindi gli stimoli sono molto molto diversi. Abbiamo il multicolor, come abbiamo anche i colori laminati, metallici, li abbiamo visti sulle passerelle di Versace. Abbiamo visto dei mini abiti in pizzo, in crochet, quindi di nuovo un ritorno agli anni 60, agli anni 70. Abbiamo visto lo stile hippie. Gli stimoli sono appunto, gli input sono molto diversi. Sarà a noi mescolarli e utilizzarli nella maniera più opportuna. Leonard, congratulazioni. Per cosa? Per l'aggiornamento del tuo stato su Facebook. Leonard Hofstadter è impegnato in una relazione. Come? No, no, non è vero. Oh, accidenti, hai cambiato il tuo stato prima che lo facesse lei. Parlando da esperto, così sembri un disperato. Sul serio, l'hai fatto per primo dopo 2 settimane. È coraggioso. Non è coraggioso, è un errore. Io non ho aggiornato il mio profilo. E allora chi è stato? Non avevo scelta, ha pianto davanti a lei. Hai hackerato il mio account di Facebook. Oh, hackerare è una parola grossa quando usi la stessa password per tutto, Kal-El. Con i nerd più famosi della TV, The Big Bang Theory è la sitcom più popolare al mondo, con gli attori più pagati della TV americana, l'ottava serie appena arrivata in Italia, tracciamo una nuova linea sulla mappa delle tendenze per il 2015. Siamo al capitolo social network. Si calcola che oggi oltre 2 miliardi di persone nel mondo siano utenti attivi di almeno una piattaforma social. I social media hanno dunque raggiunto una penetrazione del 28% sulla popolazione globale. Facebook conta 1 miliardo e 300 milioni di utenti, LinkedIn e Instagram 300 milioni, Twitter poco meno 280 milioni. E i social network stanno diventando sempre di più contenitori di informazioni specifiche. La sfida del 2015 sarà tutta sui contenuti, ci dice Gabriele Cucinella, che è Managing Director di We Are Social. Quello che succederà nel 2015 è abbastanza difficile da una parte, facile dall'altra da prevedere, nel senso che il 2014 è stato un anno già di grande evoluzione su diversi aspetti, dal punto di vista dei media, di come si sono evoluti i comportamenti dei brand all'interno dei canali social. Nel 2015 vediamo una serie di punti di evoluzione. Ci aspettiamo che la competizione tra brand all'interno dei canali, soprattutto dal punto di vista del contenuto, sia qualitativo, sia dal punto di vista degli interessi degli utenti, quindi cercando di andare a raccogliere spontaneamente gli interessi degli utenti su diversi contenuti, su diverse tipologie di contenuto, sicuramente crescerà. Quindi maggiore attenzione alla qualità del contenuto prodotto, utilizzo di diversi media e anche differenziazione del marketing mix, del media mix dal punto di vista di investimenti dei clienti, delle aziende. Sicuramente anche dal punto di vista media ci sarà un ulteriore spostamento degli investimenti su questi canali, in particolare Facebook, che rappresenta ormai il canale principale di comunicazione anche in Italia. Sta cambiando molto la distribuzione dei contenuti e la loro fruizione. Assolutamente sì, diciamo che per quanto riguarda i canali social, Facebook, come dicevo, rappresenta il canale principale, ma sia Facebook sia Twitter stanno cambiando anche un po' il modo di accedere ai contenuti. Infatti un altro punto interessante per noi è quello della ricerca dei contenuti, quindi non solo come i brand andranno a proporre dei contenuti che gli utenti potranno fruire in modo tra virgolette passivo, in realtà non passivo ma diciamo subendo la targetizzazione pubblicitaria, ma da un punto di vista attivo andando a effettuare delle ricerche sui canali. Sia Facebook sia Twitter hanno presentato nell'ultimo quarter 2014 delle soluzioni di ricerca molto avanzate che permettono di ricercare direttamente i contenuti attraverso gli strumenti di ricerca nativi delle piattaforme, cercando questi contenuti tra tutti quelli che vengono proposti, che vengono creati dai propri amici e contatti. Quindi di fatto diventano degli strumenti alternativi a Google per alcune tipologie di contenuto, in particolare quelle prodotte dagli utenti, che sicuramente saranno molto interessanti. In Italia per Facebook sta arrivando in questi giorni, quindi sarà una delle grandi novità del 2015. La scommessa degli anni a venire, lo dicono tutti gli esperti, si giocherà nelle città. Quella che nel 2015 scalerà le classifiche delle mete turistiche sarà Seoul, la capitale della Corea del Sud, già battezzata la New York d'Asia. E alle città puntano i centri commerciali, non più cattedrali nel deserto. Questa la tendenza per il settore, come ci ha raccontato Massimo Moretti, presidente del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali, che è l'associazione di riferimento per un industria che nel nostro paese fattura, pensate, 51 miliardi di euro, più del 3% del PIL. Un settore soggetto in questo momento a profonde trasformazioni tra riposizionamenti e acquisizioni di grandi gruppi. La formula sicuramente funziona e il dato importante sono dati anche dalle nostre affluenze. Noi abbiamo affluenze complessive nei nostri centri fra 1,8 e 2 miliardi di persone, che vuol dire che oggi, da stamattina a stasera, mediamente noi abbiamo circa 5-6 milioni di visitatori che ci vengono a trovare nei nostri circa 1000 centri commerciali in Italia. Questi sono i nostri dati. Il fatto che le affluenze abbiano tenuto e che comunque i consumi inizino a dare qualche segnale, siamo pronti ad accogliere a braccia aperte una ripresa più massiccia e generalizzata dei consumi. I centri commerciali hanno vissuto il loro momento d'oro, se così possiamo dire, tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Da allora il consumatore è totalmente cambiato. Come sono cambiati i centri commerciali? Come cambieranno per adeguarsi ai fenomeni emergenti? Cito uno su tutti, l'e-commerce. Io credo che ci sarà una fortissima interazione, già lo vediamo. Ad esempio il tema del click and collect è una cosa diffusissima, che quindi acquistano magari su internet ma hanno il desiderio di andarlo a ritirare presso il punto vendita, un po' per risparmiare, un po' magari per avere dei consigli e poi fare il pagamento direttamente presso il punto vendita. Sono due polarità opposte su quale noi dobbiamo lavorare con una nostra carta vincente, che è l'elemento della socialità, il momento del ritrovo, le food court, quindi un posto dove stare, dove andare, dove ritrovarsi, dove stare bene. Per quanto riguarda l'ubicazione, molti degli osservatori più attenti dicono, e ci sono già delle sperimentazioni in atto, che il futuro dei centri commerciali sarà nelle città. Sì, la ringrazio ancora, azzeccato, cioè noi abbiamo anche un tema di aiuto al nostro tessuto urbano, nel senso andiamo spesso a coprire e andremo sempre più a coprire i cosiddetti brownfield, cioè vecchie fabbriche dismesse, magari anche aree da bonificare, delle cesure all'interno del nostro tessuto urbano, dove mettere un centro commerciale vuol dire dare comunque un punto di ritrovo, un punto di passaggio, un punto dove la gente si riconosce, un posto pulito, sicuro e di qualità dal punto di vista architettonico. Quindi sicuramente quello che vediamo, che stiamo vedendo nei progetti che vediamo per i prossimi 3 anni, che riguardano quasi 1 milione di metri quadri di grossa visible area, sono moltissimi, sono in aree di questo tipo. Tecnologia indossabile e sharing economy, questi due fenomeni sotto i riflettori nel 2015, da fenomeni di nicchia, da mode, diventeranno settore di consumo nel primo caso, modello economico nel secondo. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate con noi. Essere e avere. Non mi interessa una storia d'amore. I miei gusti sono molto singolari, non capiresti. Illuminami allora. In Italia uscirà il 12 febbraio, è il film più atteso del 2015, per qualcuno un flop annunciato, quel che è certo è che se ne parlerà molto, 50 sfumature di grigio. In tema di desiderio, diciamo così, qualche settimana dopo, entro marzo 2015, arriverà invece l'oggetto feticcio più atteso, l'Apple Watch. Il prodotto, dicono gli esperti, che potrebbe aprire ai grandi numeri il settore di consumo della tecnologia indossabile. Il trend che ha dominato l'edizione di quest'anno del Consumer Electronics Show, la fiera della tecnologia che si è appena chiusa a Las Vegas. Dagli smartwatch agli occhiali, passando per braccialetti e capi d'abbigliamento, si moltiplicano gli oggetti connessi alla rete in grado di tracciare le nostre attività quotidiane. Secondo una ricerca firmata a Forrester Research, il 45% degli americani e il 32% degli europei si dicono incuriositi da questi oggetti, anche se poi solo il 10 e il 4% rispettivamente ne possiede uno. E gli analisti della banca d'affari americana Morgan Stanley calcolano che il settore dei wearable devices diventerà un business da 1.600 miliardi di dollari nel prossimo futuro. Ma l'accettazione sociale di questi oggetti non è scontata, così ci fa notare Paolo Magauda, che è ricercatore in sociologia dei consumi e delle tecnologie all'Università di Padova. Il fatto che Apple nel 2015 entri effettivamente sul mercato con un prodotto in questo settore è sicuramente un aspetto simbolico, ma è anche un aspetto, diciamo così, di portata economica, perché l'arrivo di Apple in questo settore fa crescere le aspettative di tanti altri produttori del settore, le speranze che appunto questo settore finalmente diventi effettivamente un settore di consumo rilevante. Sicuramente il settore, un settore dove prenderà piede sarà quello dello sport, del fitness, fino ad arrivare agli aspetti che riguardano la salute, il controllo della salute. C'è un grosso fermento attorno agli accessori personali, tutta una serie di altri accessori personali. C'è molto fermento anche per quanto riguarda i gioielli, ma c'è anche molto fermento da questo punto di vista per rendere sempre più premium, per così dire, di lusso questo tipo di oggetti, è così? Sì, una delle novità che vedremo nel 2015 dovrebbe essere appunto questo orologio dell'Apple, in cui la versione, diciamo così, più lussuosa sarà appunto un orologio con la cassa in oro a 18 carati. Questo ci fa intravedere un po', diciamo, una delle dimensioni caratteristiche di questi tipi di oggetti di consumo, cioè il fatto che per un verso si tratta di nuove tecnologie che mettono appunto in gioco tutta una serie di innovazioni e tutta una serie di sviluppi tecnologici, da un altro lato invece continuano a fare gioco su, potremmo dire, aspetti molto consolidati nella nostra maniera di relazionarsi agli oggetti, che riguardano appunto la moda, che riguardano la fascinazione per le cose preziose. C'è un problema di accettazione sociale per questo tipo di oggetti? Certo, perché appunto da un lato siamo tutti molto affascinati dal poter disporre di oggetti che si collegano a internet, che automatizzano delle funzioni, che ci permettono almeno sulla carta di fare delle cose meglio, in maniera più veloce. Non pensiamo alle varie implicazioni che hanno questi oggetti e soprattutto il fatto che questi oggetti iniziano a contenere e a trasmettere informazioni che ci riguardano. Questo è un po' il primo aspetto veramente appunto abbastanza rilevante rispetto alle tecnologie indossabili. Siccome il mondo di pietra era chiuso, vai dallo charcutier qui alla cantonata, eh? E chi è questo charcutier? Il pizzicagnolo, il salumiere. Gli lasci questa roba in pegno e ti fai dare 1,5 chili di spaghetti. Poi ti fai una bella buatta di pomodoro, eh? Perché a me gli spaghetti piacciono pieni di sugo. Ti fai dare 1 chilo di salsiccia. Non pigliare quella stantia, quella già fatta. Ti fai dare 0,5 chilo di mozzarella di Aversa, freschissima. Piglia queste dita, premi la mozzarella. Se coli il latte, te la pigli. Se no, desisti. Se io vado allo chartonier, con questo paltò, quello mi piglia a calci. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church. Una spesa di qualità anche anche in tempi di crisi. Questo è il miraggio di miseria e nobiltà, questa l'esigenza che i supermercati hanno saputo intercettare, puntando molto in questi anni sulle cosiddette private label, i prodotti a marca del distributore che conquistano sempre di più quote di mercato. Lo spunto per noi per riflettere su come stia cambiando e come cambierà nei prossimi mesi il carrello della spesa, ma anche i luoghi dove fare la spesa, i supermercati. Lo abbiamo fatto con Francesco Pugliese, presidente di Associazione Distribuzione Moderna. La marca del distributore oramai rappresenta una realtà, è arrivata al 19% di quota di mercato, sempre di più sta diventando una vera e propria alternativa al prodotto di grande marca. Inoltre il 40% delle categorie di prodotto dove è presente la marca commerciale, questa è il leader di mercato. E questo la dice lunga appunto su quello che è il potenziale. Ci sono catene dove questo indice è ancora più alto. Per ciò che riguarda la crescita della stessa, si assiste ad un fenomeno che sembra quasi controdipendente a questa crisi. Cresce molto la marca commerciale nei settori che sono i settori più premium, quindi quelli dei prodotti DOP, IGP e quindi della tipicità, il bio. Parliamo ancora di crisi per le grandi superfici, quindi per l'iper, e di riscoperta del punto di vendita di vicinato. Come si stanno muovendo in questo senso le insegne? Gli ipermercati sono in contrazione, questo oramai da un po' di tempo, e tra l'altro non ci sono più grandi aperture in quel mondo, ma quando si pensa agli ipermercati bisognerebbe fare un'analisi che è più attenta, dipende dalla dimensione dello stesso e soprattutto dall'ubicazione dello stesso. Oggi la gente non fa più le grandi spese, preferisce comprare quotidianamente per tenere sotto controllo il borsellino. È chiaro che questo sta aumentando la frequenza nel fare la spesa e sta diminuendo lo scontrino medio. Questo però privilegia ovviamente le strutture di medie dimensioni, più che le grandissime, di medio-grandi dimensioni o le piccole. Anche perché oramai le differenze di prezzo fra una struttura di 1200 metri quadri e una di 5000 non sono così eclatanti da giustificare il maggior costo di benzina che si deve avere per spostarsi. Il consumautore. Anche in questa puntata di scenario, anzi a maggior ragione in questa puntata di scenario, la riflessione finale, la nostra riflessione finale affidata a Francesco Morace. Ciao Francesco, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare nel 2015 dal punto di vista dell'atteggiamento del consumatore, delle strategie dei brand e dei fenomeni emergenti? Dobbiamo aspettarci una grande varietà di fenomeni e io in particolare li raggrupperei in tre grandi aree: i consumi generativi, i consumi circolari e consumi specifici. Quindi, se vuoi, li affrontiamo uno per uno e li spieghiamo. Assolutamente sì. Allora, consumi generativi sono quelli legati non tanto alla classica passività del consumo, ma al bisogno di generare noi tutti come persone, come cittadini, esperienze in cui il consumo ha un ruolo anche importante, ma in cui questo elemento di generatività, quindi tutto ciò che per esempio è educativo, tutto il mondo dei bambini, tutto il mondo dell'educazione che si incrocia con la scuola, ma anche il mondo del coltivare, ad esempio, della coltivazione. Sappiamo quanto i fenomeni agricoli in qualche modo abbiano oggi un grande peso, anche legato per esempio al turismo che è conoscenza del territorio, quindi generare conoscenza, ma è anche andare alla ricerca di nuove forme, ad esempio di alimentazione, nuovi ristoranti. Ecco, quindi tutto il mondo del cibo, ma non solo nella dimensione che abbiamo conosciuto fino ad oggi, quello diciamo da MasterChef, ma quello della conoscenza alimentare, che evidentemente include anche il mondo per esempio dell'energia, no? La dimensione energetica, come produciamo energia, come la consumiamo, sarà sempre più al centro della nostra attenzione. Consumi circolari, il secondo trend. Sì, consumi circolari cosa significa? L'abbiamo definita spesso la sharing economy. Questa dimensione di condivisione certamente rimarrà ed è importante, ma per consumi circolari non intendiamo solo la condivisione, intendiamo anche tutto ciò che davvero circola e circola a costo zero molte volte. Quindi tutto ciò che riguarda il talento, le idee che circolano a costo zero, tutto ciò che si scambia, ma anche ciò che si regala. Allora, da questo punto di vista, mi permetto di ricordare che proprio in questi giorni è in uscita il mio ultimo libro, che si chiama Crescita Felice, che è tutto dedicato a questa dimensione di circolarità del consumo, ma anche della nostra esperienza quotidiana. Stiamo chiudendo molti cerchi delle cose che abbiamo raccontato anche in questa puntata nei settori specifici. Consumi specifici, appunto, il tuo ultimo trend. Sì, consumi specifici significa che questa maggiore consapevolezza e anche naturalmente maggiore informazione ci permette di andare a colpo sicuro su alcuni consumi che possono essere anche banali, quotidiani, ma in cui abbiamo molta più capacità di valutare ad esempio il valore reale, quindi quanto si debba investire. Andiamo certamente ancora alla ricerca del bargain, cioè dell'affare, quindi ancora questo sarà un anno in cui dal mondo degli outlet a quello dell'economia in qualche modo ottimizzata, direi, queste avranno ancora una grande importanza, però saremo molto più specifici, nel senso saremo più attenti alle reali occasioni in cui avremo bisogno di qualcosa e saremo molto più in grado di capire velocemente, anche con l'aiuto della tecnologia, qual è il modo migliore di soddisfare queste esigenze. Un unico grande esempio, direi un intero settore, è quello della salute. Quando anche per noi italiani, che poi amiamo essere invece più generici, a volte anche un po' ideologici, quando si parla di salute non si scherza, vogliamo essere specifici, vogliamo avere informazioni precise ed andiamo a comprare esattamente ciò che alla fine ci serve. Allora Jobon, ad esempio, che è uno dei tanti progetti che su questo, il braccialetto che ti dice anche durante il sonno quali sono le tue reazioni biochimiche, è un buon esempio. Ecco, vogliamo su questo davvero essere specifici. Quindi ecco, internet delle cose, un'altra appunto dei temi in evidenza che abbiamo raccontato. Francesco Morace, grazie, a domenica prossima. Grazie a voi. In chiusura, le nostre ultime due segnalazioni per la mappa del 2015: sarà l'anno internazionale della luce, light2015.org, il sito di riferimento dell'ONU, sarà l'anno della mostra dedicata ad un periodo culturale che non smette di affascinare, The World Goes Pop, a settembre alla Tate Modern di Londra. Avremo modo ovviamente di raccontarvela. Intanto non smettete di seguirci, pagina Facebook per tutti i contributi aggiuntivi e per le puntate da riascoltare. Pagina programmi di radio24.it se volete scaricarle. A domenica prossima alle 15, come sempre un saluto da Maria Luisa Pezzali.